Era un grande stanzone quadrato, senza parato, dipinto semplicemente di giallo smorto, sui mattoni grezzi sempre polverosi, malgrado l'acqua che vi buttava sempre la signora Caputo, non vi era tappeto. Lungo la parete, un divano di lana cremisi sfiancato, le due poltrone, anche di lana cremisi, coperte di pezzi di merletto all'uncinetto, lavoro speciale di Enrichetta. Due o tre scaffaletti di legno nero dipinto, vecchio, scrostato, su cui giacevano dei gingilli antichi e brutti, un albo di vecchie fotografie, certe scatolette di cartone coperte di conchiglie, certe bomboniere di raso stinto, un tavolino tondo in un canto, coperto di marmo bianco, già tutto macchiato di giallo, senza tappeto sopra, su cui erano posati due lumi. Un pianoforte verticale, piccolino, con la spalliera di seta rossa tutta tagliuzzata e stinta. Una quarantina di sedie di paglia scompagnate, più basse, più piccole, con la spalliera rossa, con la spalliera nera. Ecco tutto il mobilio. Per arrivare a quello stanzone dove si doveva ballare, bisognava attraversare un'anticamera che aveva per unico mobilio un grande tavolone dove posare i soprabiti e i cappelli. Un altro stanzone oscuro e smobiliato, diviso in due da una tenda, dietro la quale si nascondevano i due miseri letti della madre e della figliuola. L'anticamera, illuminata da un lume a petrolio, sospeso al muro, fumoso, ignobile. Lo stanzone di passaggio era perfettamente oscuro. Tutta la potenza dell'illuminazione era concentrata nello stanzone da ballo, due lampade a petrolio sul tavolino, un lume a olio sopra uno scaffale, due steariche dei candelieri del pianoforte, nei candelieri del pianoforte, ma le steariche erano spente per non farle consumare tanto presto. Alle 8, dietro la tenda dello stanzone, Enrichetta cuciva della trina lavata e stirata al suo vecchio corpetto di raso rosso e aveva ancora i capelli avvolti nelle cartine. Era in sottanina bianca, una gamba accavalcata sull'altra e rispondeva acremente alla voce acre, al tono brusco di sua madre. «Bisogna che si dichiari con me, hai capito? Io sono seccata di vedermelo per casa!» «Ah, io anche, ti assicuro, mandalo via se vuoi, che non me ne importa niente!» «Perché va sempre da malagrida?» «Perché ci sono io», dice lui. Che? Questo modo di agire mi dà sospetti, mi girano certe brutte idee per il capo. Che idee? Arturo ti pianta per Eugenia. Eugenia è troppo brutta. Sì, ma hai denari, hai denari, hai denari, cantò su tre toni la vecchia, cercando di allacciarsi un busto troppo sgangherato. Enrichetta chinò il capo a quella parola, destinata a schiacciarla per tutta la vita. Bussarono alla porta. Le due donne si guardarono imbarazzate, erano seminude. Nessuna delle due poteva andare e la serva non ce l'avevano, temevano che fosse già qualche invitato premuroso. Sarà forse la colonnella, borbottò la vecchia, le manca sempre qualche cosa. E si rassegnò, si avvolse in un vecchio sciallo, trascinando le ciabatte, andò ad aprire. Enrichetta si pettinava lentamente, guardandosi in uno specchietto verdastro con una cera da ragazza annoiata della parte che rappresenta. Quelle feste settimanali del sabato in quella casa sporca e nuda che la pietà del governo elargiva alla vedova e all'orfana dell'ufficiale, in quel grande caravanserraglio che è il padiglione del divino amore, la tormentavano poiché mai, come in quella sera, sentiva la sua miseria. Giusto la madre ritornò borbottando. Che voleva la colonnella? Chiese la ragazza. Voleva le quattro sedie che mi ha prestate. Ha delle visite. Ah, brava, le sedie sono poche. Dove si siederà la gente? I giovanotti non hanno bisogno di sedersi, rispose la madre appuntandosi una camelia di batista nei capelli. E il petrolio nei lumi ce l'hai messo, mamma? Ce l'ho messo, ma ce ne vorrebbe un altro poco, non sono pieni. E se si smorzano? Si smorzano, si smorzano. A mezzanotte mando via la gente io. Allora sarebbe meglio non farla venire. No, cara, ogni settimana si balla da galanti, da malagride, da falco. Io non voglio restare indietro, capisci? Ma costoro hanno i denari, mormorò la ragazza, incipriandosi la gola scoperta. Era il ritornello eterno che la madre buttava in faccia alla figliuola, che la figliuola ributtava in faccia alla madre periodicamente. Ciò le inaspriva, rendeva le loro conversazioni intime una guerra continua. Enrichetta si guardava nello specchio, soddisfatta di essere più bianca delle Galanti, più snella della Malagrida, più colorita della Falco, più piacente della Borrelli, più alta della Casale, più bella, insomma, di tutte le ragazze che venivano a ballare da lei il sabato. Gaetanino Ceraso ti fa la corte? Chiese a un tratto la madre. Un poco, non me la fa di più, per soggezione di Arturo. Arturo, Arturo, bisogna liquidare questo affare di Arturo. Ne parlerò stasera a Matilde Tuttavilla. E il pianoforte chi lo suona? Io per me non mi ci accosto, lo sai, mamma? Suonerà Cicillo De Marco, il gobbo. L'ho invitato apposta. Gli dirai delle cose amabili, egli se ne andrà in sollucero e suonerà per tutta la sera. Dopo un'ora già lo stanzone da ballo era pieno di gente. Le mamme, la Galanti, la Malagrida, la Falco, la Borrelli sedevano sul divano d'onore e sulle due poltrone, facendosi vento, tessendo ognuna l'elogio delle proprie figliuole. Le ragazze sedevano l'una accanto all'altra in fila, tutte composte ancora perché non si ballava. Si faceva un po' di musica prima e i giovanotti restavano in piedi dietro le sedie delle ragazze parlando loro sottovoce. Mentre donna Candida Scoppa, incinta di 6 mesi, enorme, con una faccia estenuata di donna gravida, cantava la romanza Giulia di Denza parlando di una ragazza morta. La Malagrida, figliuola, quella sera aveva inaugurato un vestito di velluto nero che la faceva sembrare meno grassa, meno brutta, e l'avvenimento era la finezza della sua cintura. Certo, doveva portare un busto di Parigi, aveva portato sempre 70 centimetri di giro, quella sera non ne aveva più di 58. È vero che stava dura dura come un tronco pietrificato e impallidiva ogni tanto non potendo respirare. Enrichetta Caputo si era un po' rattristata vedendola così elegante. In fondo ella gli voleva bene ad Arturo Aiello e le sarebbe dispiaciuto di perderlo così. Ma si era distratta dovendo ricevere le sue amiche, togliendo loro le mantelline e le sciarpe, portandole sul suo letto, instancabile, cercando di far dimenticare la povertà della sala, la luce meschina dei lumi, la mancanza delle sedie, col suo sorriso di bella ragazza, che non altro. E nessuno pareva accorgersene di quella miseria. Ragazze, giovanotti, venuti là solo per divertirsi e per amarsi, per ballare, essi che avrebbero ballato in una piazza e al suono di un piffero. Crepavano dalle risa al canto di Gaetanino Ceraso, che cantava o declamava una scena in dialetto, La mano della gnora, in cui un giovanotto innamorato, seguendo l'innamorata nella chiesa, nella penombra afferra la mano della madre invece di quella della figliuola e la vecchia gli si offre per moglie subito. Gaetanino Ceraso, un ingegnere di ponti e strade, coltivava il canto buffo con grande successo. Nei ballonzoli settimanali, ma questo gli impediva di fare delle conquiste, le ragazze amavano i giovanotti malinconici o almeno seri, quelli che non facevano ridere la società. Anche Enrichetta Caputo pensava così. Ella preferiva la serietà di Arturo Aiello all'aria ineffabile con cui si passava la mano tra i capelli. Rideva finanche la povera Enrichetta Brown, che quella sera aveva messo un vestito di broccato rosso nuovo e un paio di orecchini di rubini bellissimi. Accanto a lei il vecchione geloso aveva una parrucca rossa nuovissima e la dentiera luccicava nella sua cornice d'oro. Finché non si ballava, il vecchione si divertiva tenendosi accanto la moglie. Quella sera spingeva la tenerezza sino a tenerle la mano. Ella chinava il capo, umiliata e confusa, non osando guardare in volto le persone. Ella sentiva, sì, sentiva in coloro che la incontravano la pietà, la curiosità fredda, il biasimo, il disprezzo. Ella sentiva sopra di sé il vario giudizio della gente. Ella, che bella, giovane e povera, volontariamente aveva voluto sposare un vecchione schifoso e ricco. E i più benevolenti la compativano, sì, ma non la trovavano poi tanto infelice con tutti quei quattrini. E i più severi l'accusavano di ingordigia, la ritenevano per una venduta del matrimonio. Ella sapeva bene che lo aveva fatto per pietà della propria famiglia, immersa in una decente ma crescente miseria, per i suoi genitori vecchi e stanchi delle privazioni, per i suoi fratelli buoni e pieni di ingegno che avevano bisogno di denaro per prendere le professioni onorevoli e lucrose. Ma a chi raccontare tutto questo? E anche perché raccontarlo? Lasciava che la gente la tenesse per la più venale delle donne, datasi a un cadavere per i gioielli e le stoffe di cui la copriva. E il nobile sacrificio della sua vita lo compiva nel silenzio, nel giudizio ingiusto del pubblico. Sulla soglia dello stanzone, Arturo Aiello era comparso col soprabito chiuso delle domeniche, con un bottone di camelia bianca all'occhiello e guardava nella sala per vedere chi ci fosse, astutamente, senza averne l'aria. Enrichetta Caputo era scivolata fra i gruppi per accostarsi a lui, mentre Federico Pietraroia, il filo drammatico, declamava il pranzo in famiglia di Arnaldo Fusinato. «È per me quella camelia?» chiese sottovoce Enrichetta. «È per te?» disse lui levandola dall'occhiello e dandogliela, ma probabilmente dopo una lieve esitazione. Ella riattraversò la sala, questa volta gloriosamente, portando in trionfo la sua camelia. Un rumorio nasceva. Le sedie erano respinte sino al muro. Le ragazze e i giovanotti confabulavano vivamente. Si cominciava a ballare. Gennaro Mascarpone, primo commesso della casa Mackay Hooker, che negozia in Baccalà, dirigeva la sala e gridava da 5 minuti «Walzer en place!». Le coppie si formavano, prima 2 o 3 timide, poi sino a 6, 7, ritte, aspettando che tutto fosse all'ordine. Enrichetta Caputo era andata presso il gobbo Cicillo De Marco e sorridendogli, lanciandogli l'occhiata assassina, cercava di convincerlo a suonare quel valzer, solo quello, pochi giri tanto per cominciare. E il gobbo maligno si lasciava far la corte, si lasciava pregare, faceva lo scontento, crollava il capo, diceva di no. Enrichetta dovette promettergli di fare la quadriglia con lui, se no non avrebbe suonato. Le prime note stridule del pianoforte scordato esilararono le ragazze e i giovanotti che battevano la musica, agitavano il capo, presi dalla loro giovanile passione per la danza. «Walzer! Walzer!» urlava Gennaro Mascarpone. Enrichetta cercò con gli occhi Arturo per ballare con lui il valzer, come era stabilito, senza che lui pensasse più a invitarla. Tutte le ragazze ballavano il primo ballo con l'innamorato o col fidanzato. Era la regola. Emilia Galanti era al posto col suo dottore in chirurgia. Mariannina era appoggiata al braccio del suo tenentino che aveva fatto la domanda in regola. Margherita Falco ballava col fratello di Elvira Brown. Annina Casale con Federico Pietraroia che le faceva la corte. Ma dov'era dunque Arturo Aiello? Certo, anche egli cercava Enrichetta per aprire il ballo. E alla musica pestata dal gobbo sul pianoforte, le coppie si slanciarono e Enrichetta vide che Arturo ballava con Eugenia Malagrida, senza mai guardare dalla sua parte, come vergognoso. Vide che Eugenia aveva nei capelli un po' radi, ma artificiosamente acconciati dalla pettinatrice, un bottone di camelia bianca simile a quello che ella aveva tolto ad Arturo. Un dolore acutissimo la fece impallidire, mentre insieme alle coppie che ballavano, facendo tremare il pavimento con l'allegrezza della gioventù spensierata, le pareva che tutta la sala girasse. Gennaro Mascarpone, bel giovane dalla pronunzia francese dolcissima, dall'aria pretenziosa, le offrì di ballare. Egli era il direttore della sala, faceva il tiranno, si accaparrava alle ragazze e ballava infine più degli altri. E la rifiutò col capo, non avendo la forza di parlare, guardando sempre girare Eugenia, grossa e dura, come un tronco nel suo vestito nuovo di velluto nero, con Arturo Aiello, dall'aria malinconica che andava al cuore delle ragazze. Gaetanino Ceraso, l'ingegnere che cantava le canzonette buffe, ebbe un intuito di quel dramma intimo. Arrivò sino ad Enrichetta e le chiese a bassa voce «Perché non girate il valzer?» «Perché non mi piace», rispose ella indispettita. «Via, via, siate buona, fate un giro con me», soggiunse lui dolcemente. Ella lo guardò, commossa per un minuto, indovinando che gli aveva indovinato, e fu lì per accettare, per vendetta contro Arturo. Gaetanino aspettava, ma ella se lo rivide innanzi come un momento fa, tutto lezioso, tutto ridicolo, far sbuffare di risa l'assemblea cantando la mano della gnora. «No», disse, «no, non voglio ballare». Rimase ritta, guardando quelli che ballavano, le galanti tanto carine, coi loro vestiti nuovi di lana verde cupo. Margherita Falco, seducente nella sua tolettina semplice di lana bianca. Annina Casale che faceva svolazzare il suo breve strascico di seta nera, Caterina Borrelli tutta pomposa in un vestito di lana grigia a fasce di velluto nero, fino anche Eugenia. Ma la grida diventava sopportabile col suo busto di Parigi e il suo vestito di Madame Rigaud, tutte quante felici di ballare con la persona che amavano o che piaceva loro. Ella sentì tutta la vergogna della sua vecchia gonnella di lana crema, del suo vecchio corpetto di raso rosso, delle sue trine lavate. Sentì tutta la vergogna di quello stanzone vuoto, sporco, male illuminato, il tetto che è concesso per elemosina. Sentì tutto l'isolamento, l'abbandono della miseria quotidiana, incessante, invincibile, e un'onda di amarezza le sconvolse il sangue. Le coppie passeggiavano in giro per riposarsi, le madri avevano tirati indietro i piedi per non farseli calpestare e sorridevano alle figliuole di cui erano soddisfatte. La madre Caputo parlava a Matilde, tutta villa, con molta enfasi, ed ella l'ascoltava, molto preoccupata. Enrichetta si dava da fare, aveva condotto Riccarda Galanti in cucina per darle da bere, una cucinetta nuda, con parecchi arnesi, un piattino di maccheroni freddi sopra un tavolino e un pezzetto di cacio svizzero, la cena di Enrichetta. L'acqua era stata presa in un bicchiere di vetro verdastro da un secchio posato per terra. Riccarda, disgustata e impietosita, non avrebbe voluto più bere, ma temette offendere Enrichetta. Poi Emma Frugio, una biondona prepotente, aveva fatto saltare, ballando troppo, due bottoni del suo vestito. Enrichetta dovette condurla nello stanzone scuro dietro la tenda con una stearica tolta dal pianoforte e fra i due letti disfatti, le catinelle piene di acqua sporca, gli stracci buttati all'aria e le ciabatte trascinanti, trovare un ago, un ditale, del filo per cucire i bottoni di Emma Frugio. Quando ritornarono nello stanzone, una quadriglia montre si combinava di 16 coppie come non se n'erano mai viste in casa Caputo. Gennaro Mascarpone si dimenava come un ossesso, brutalizzava i suoi amici, si abbandonava a una violenza feroce di temperamento. Ma per fare queste 16 coppie, tre ne mancavano. La signora Galanti, per far ballare queste creature, si era già levata su. «Balli con me la quadriglia?» sussurrò Arturo Aiello a Enrichetta mentre costei gli passava accanto. «No, sono impegnata», rispose costei senza neppure voltarsi. E andò a scegliere il suo cavaliere. Mancava sempre una coppia. Gennaro Mascarpone, con la sfacciataggine del direttore di sala a cui nulla deve resistere, andò a invitare la signora Elvira Brown, quantunque sapesse che era il più cattivo complimento da farle. Tutti conoscevano la gelosia del vecchione e mentre lei, timida, resisteva debolmente, tre o quattro coppie la circondavano e la pregavano. Senza lei non si sarebbe potuto ballare. Il marito guardava in aria come disinteressato, fingendo di non vedere le occhiate con cui ella gli chiedeva permesso di ballare, ed ella finì per cedere. Si levò, tutta bella, al braccio di Gennaro Mascarpone, trionfante, mentre il vecchione diventava verde dalla bile. In quel momento si vide che Cicillo De Marco, il gobbo, mancava e che non vi era nessuno per poter suonare il pianoforte. Furono 2 o 3 minuti di grande confusione, di disperazione. Mascarpone era furioso. Borbottava che lui non era abituato ad erigere in case dove non vi era neppure uno strimpellatore di pianoforte. Infine, Matilde Tuttavilla, per far divertire tutta quella gioventù, si sacrificò. Andò al pianoforte, gridò che si dovevano contentare di certi vecchi motivi aggiustati alla meglio per quadriglia. Ora si ballava tutti e tutte, sottovoce. Si meravigliavano di Enrichetta Caputo che ballava con molta disinvoltura con Cicillo De Marco, il gobbo. Le ragazze alle 11:30 avevano circondato Gennaro Mascarpone, pregandolo, scongiurandolo perché facesse far loro il cotillon. Ma egli resisteva. Diceva che era impossibile ballare il cotillon senza le cose che ci servono, i mazzolini di fiori, le sciarpe, le decorazioni. E le ragazze protestavano, non importava nulla che tutto questo non ci fosse, egli era pieno di fantasia, avrebbe inventato delle figure, esse si contentavano di tutto purché avessero ballato il cotillon. E soggiungevano sottovoce: se non si ballava il cotillon, le mamme avrebbero subito voluto andar via, non si ostinasse nella sua cattiveria. Gennaro Mascarpone si lasciò piegare e andò a confabulare con la signora Concetta Caputo e con Enrichetta per avere almeno qualche oggetto indispensabile. Madre e figlia fingevano la disinvoltura, ma erano turbate. Una sedia appartenente alla suocera del maggiore era stata fracassata in un giro di galoppo e si sarebbe dovuta ricomprare all'indomani per restituirgliela. Le steariche avevano soltanto 2 dita di altezza, i lumi a petrolio si affiocchivano. Matilde Tuttavilla aveva spezzato 2 corde del pianoforte per pestare troppo forte e a mezzanotte, certamente, la vedova del colonnello si sarebbe messa alla finestra a gridare contro tutto quel chiasso notturno, come aveva fatto l'altro sabato, che era dovuto andare da lei, Arturo Aiello, per persuaderla a tacere. Pure le 2 donne fecero buona faccia a Gennaro, che chiedeva loro un cuscino, uno specchietto, un candeliere con la candela accesa. Mentre si facevano i primi giri del ballo, Enrichetta cercò tutte quelle cose. Portò prima a Gennaro una bugia di ottone sporco, opaco, con un mozzicone di candelotto. 2 cavalieri erano presentati a una dama con 2 nomi di fiori, Rosa e Gardenia. Ella sceglieva la Gardenia, ballava col cavaliere che portava questo nome, l'altro che aveva la Rosa portava la candela dietro alla coppia danzante. Tutta la sala rideva alle sue spalle. Egli stesso fingeva di ridere per aver l'aria di persona spiritosa, ma lo sfortunato si rodeva per quell'ingiustizia del destino. Gaetanino Ceraso, portando la candela dietro a Margherita Falco e al suo fidanzato, che la sorte aveva riuniti, fece ogni sorta di lezzi, di smorfiette per esprimere il suo rammarico. La sala crepava dal ridere, i giri di valzer si moltiplicavano, Cicillo De Marco suonava come un dannato, tutto felice di aver ballato la quadriglia con la più bella ragazza della festa. Dopo 2 o 3 altre figure, Enrichetta portò a Gennaro Mascarpone un cuscino del suo lettino sottile, con una foderetta di una dubbia biancheria, e la interessante figura dell'inginocchiamento cominciò fra il divertimento di tutti. Una dama che doveva ballare portava innanzi a ogni cavaliere seduto questo cuscino, glielo metteva ai piedi, sogguardandolo, e l'astuzia del cavaliere era di inginocchiarsi d'un colpo solo per cadere sul cuscino. L'astuzia della dama era di tirare subito il cuscino per far battere in terra le ginocchia del cavaliere. Era un'ansietà di tutti il vedere la doppia malizia, femminile e maschile, studiarsi, indovinarsi, giocarsi. E il battere delle ginocchia a terra con la smorfia di collera del cavaliere, il tonfo sordo di colui che trionfalmente cascava sul cuscino, la faccia indispettita della dama. Era uno spasso straordinario. Gennarino Mascarpone era dichiarato il dio dei maestri di sala. Caterina Borrelli, maligna come una scimmia grassa a cui rassomigliava un poco, fece cadere tutti i cavalieri e non ballò con nessuno. Federico Pietraroia arrivò a ballare con Elvira Brown. Eugenia Malagrida si rifiutò di portare in giro il cuscino. Le dispiaceva di far cadere i cavalieri. Enrichetta era nervosa perché uno dei piattelli delle steariche era scoppiato. La candela finiva. Matilde Tuttavilla parlottava con la signora Malagrida, ora spianando le sopracciglia per qualche cosa di sorprendente che la grossa signora le diceva. Enrichetta aveva adesso consegnato a Gennarino Mascarpone il suo specchietto verdastro per la gran figura finale. Una dama sedeva nel centro della sala, tenendo in mano lo specchio e un fazzoletto. Uno alla volta i cavalieri venivano a specchiarsi. La dama puliva lo specchio per colui con cui non voleva ballare, dava una spazzatina come un frego, come una cancellatura, e posava lo specchio per colui con cui voleva ballare. Era la gran scelta finale in cui tutte le simpatie, ingenuamente, si manifestavano, le dichiarazioni d'amore corrisposto, di affetto incipiente, la preferenza dichiarata in pubblico chiaramente e semplicemente. E i cavalieri facevano gli scettici, non volevano venire a specchiarsi, si lasciavano trascinare. agli amori conosciuti o sospettati, vi era un lieto mormorio nell'assemblea, un riso indulgente di tutti come un incoraggiamento amabile a volersi bene. Ma fu uno stupore profondo in tutti quando Eugenia Malagrida, che aveva 150.000 lire di dote, era grossa, grossa, tozza e lucida, dopo aver dato una spazzatina a tutti i cavalieri, posò allo specchio per Arturo Aiello, il povero impiegato, ritenuto come il fidanzato ufficiale di Enrichetta Caputo. Tutti la guardarono, Enrichetta. Ella rideva nervosamente. Il piattello dell'altra stearica si era spezzato. Nella cucina, al chiarore fumoso del lume di anticamera, donna Concetta Caputo si lamentava da un quarto d'ora per tutti i guasti accaduti quella sera, col solo risultato di far saltare quattro pettegole che poi avrebbero detto male di loro andandosene. Enumerava la sedia rotta, le corde spezzate, il petrolio consumato, i piattelli scoppiati, borbottava senza fine. Enrichetta, portando ancora il suo vecchio busto di raso rosso, guardava il piatto di maccheroni freddi e unti con cui doveva cenare e piangeva. 4. Si entrava per una larga corte di un palazzone bigio di rua catalana dove, nell'ombra, si profilavano i contorni di 7 o 8 carrozzelle da nolo, senza cavallo, con le stanghe in aria. Un cortilone che serviva anche di rimessa. Si saliva per una grande scala, ma infangata e male illuminata, a un secondo piano dalla porta spalancata. Si entrava senza farsi annunziare in un'anticamera dove gli ombrelli aperti lasciavano in terra dei rigagnoletti di acqua piovana e i soprabiti si asciugavano sulle sedie. Era l'appartamento di Don Giuseppe Froio, ex capitano della Guardia Nazionale, dove si era ballato tutte le domeniche di carnevale e ora si veniva, nella prima domenica di Quaresima, per la rottura della pignatta. Don Giuseppe Froio aveva sempre esercitato il mestiere di usuraio, ma a piccoli prestiti, giammai grandi operazioni, per paura di rimetterci fondi, e lentamente si era arricchito. A 50 anni era capitano e notabile del quartiere Porto. Per molto tempo aveva convissuto con Franceschella, la sua serva, ma costei aveva dato anche lei il denaro a usura così bene, così duramente, che il padrone ammirato le aveva aperto un'agenzia di pegnorazione, la quale agenzia, condotta meravigliosamente da Franceschella, aveva reso il 100%. Tanto che Don Giuseppe si era deciso a sposare Franceschella, che subito dopo il matrimonio era diventata donna Franceschina. Aveva ceduto a una sua nipote l'agenzia pubblica, ma continuava a prestare denaro sopra pegno, in casa, privatamente. Ora Don Giuseppe e donna Franceschina non avevano figliuoli e sapevano fare i loro affari. Non erano avari e il desiderio degli onori li tormentava, la vanagloria di ricevere in casa li torturava. Ogni domenica di carnevale si ballava da loro. Le tre sale erano piene di gente che conoscevano e non conoscevano, amici di amici di altri amici, sorelle delle parenti di amiche intime, famiglie intere con appendici di fidanzati, condotte da altre famiglie. Don Giuseppe e donna Franceschina non chiedevano nulla purché la gente venisse, ballasse, riempisse la casa. La casa era grande, 3 saloni, un salotto, ma i mobili erano eterogenei, accozzati stranamente fra loro, un divano rosso, una poltrona azzurra, un orologio rococò fermo, un tavolino di legno scolpito, una tenda di broccato, un tappeto falso di Smirne. Tutte le sedie scompagnate, nessun candelabro rassomigliava all'altro. Un enorme specchio senza cornice, dei quadri religiosi tutti affumicati, una venere di marmo con le braccia spezzate, tutto alla rinfusa come in un negozio di robi vecchi. E sapendo la storia del padrone di casa, si capiva che quella roba era stata impegnata da disgraziati che non avevano potuto riscattarla. Erano mobili che venivano da tante case diverse, portati via, non ripresi mai, dimenticati, abbandonati, rimpianti forse da coloro cui erano appartenuti ma non potuti salvare dalla rovina. Guardando donna Franceschina, ella rassomigliava alla casa. sul capo, al collo, alle orecchie, alle mani, alle braccia, alla cintura, sul petto, e l'era piena di gioielli tutti scompagnati: orecchini, spilloni, anelli, braccialetti, catenelle e catenine, malacchiti e brillanti, perle e ori grossolani, fin anche sul petto un medaglioncino che portava una delicata miniatura, una donnina, un ritratto, chissà, un ricordo di famiglia, una tenerezza forse. Ma coloro che venivano a divertirsi in casa Froio non andavano a osservare tutto questo. Era così piacevole trovare una casa grande, bene illuminata, dove non fosse neppure necessario di salutare i padroni di casa entrando e uscendo. Don Giuseppe teneva sempre sul capo un berretto di guardia nazionale in memoria degli antichi onori. Donna Franceschina, per un'antica abitudine, andava continuamente ricaricando i lumi a moderatore e la coppia sorrideva a tutti come a vecchie conoscenze, felice di vedere la casa zeppa. Quella sera, per la rottura della pignatta, si circolava con difficoltà. Tutti erano venuti con la speranza di prendere un premio, le ragazze De Pasquale con certi abitini provocanti di seta nera scollati in quadrato, con le maniche di velo nero che lasciavano vedere le bianche braccia, con le trecce bionde sulle spalle, avevano condotto tutta la loro tribù di adoratori, fin anche il contino Geraci si era degnato di venire, malgrado la sua consuetudine dei saloni nobili. E senza curarsi di nessuno, tenevano circolo come in casa loro, ridevano, chiacchieravano, tutte soavità, tutte brio, un po' dipinte, un po' melanconiche nel fondo dell'anima, visto che con tanti omaggi non si maritavano. Le Fusco, Elisa, Costa, Gelsomina Santoro, stavano aggruppate intorno a un pianoforte, passandosi delle carte di musica con un'aria sapiente, parlando ancora di musica. Una voce circolava. Maria Fusco si maritava col tenorino del Teatro Nuovo, quello che faceva Angelo Pitù nella figlia di Madame Angot e Maraschino nel Giroflé Girofla. L'altra sorella aveva voluto suicidarsi per uno studente che l'aveva abbandonata. Annina Manetta era raggiante, sua madre, non sapendo più come bastonarla per non farla amare Vincenzino Spano, aveva finito per acconsentire. Vincenzino aveva fatta la domanda. Ci volevano altri 5 anni per il matrimonio, ma intanto accompagnava dappertutto Annina. Ora le scene cominciavano per Adelina, la minore, che si era incaponita a voler far l'amore col figliuolo di un calzolaio. La mamma era disperata. Prendeva schiaffi Adelina quotidianamente. Anche quella sera il figliuolo del calzolaio era riuscito a venire in casa Froio, condottovi da un amico. Caterina Borrelli e Annina Casale, le indivisibili, giravano per le sale tenendosi a braccetto. Caterina, con gli occhiali sul naso e il suo bel vestito di lana grigia a fasce di velluto nero diventato già vecchio, tanto ella era sciattona. Annina, decisamente innamorata di Federico Pietraroia, che doveva venire in casa Froio quella sera e gli andava dappertutto. Emma Froggio, per le scale, aveva perduto un tacco del suo stivalino e se ne stava in un angolo tutta ingrugnata, non potendosi muovere, col piede nascosto sotto la sedia. Per fortuna non si ballava quella sera, era quaresima e donna Franceschina era scrupolosa. Le ragazze Sanger, tutte 5, col fedele Carluccio Finoia accanto a Carolina, con Rocco Marzolla, un maestro di arpa che amava Gaetanella Sanger, che era afflitto da una strana sordità e che aspettava di essere scritturato all'orchestra del fondo per poter fare il matrimonio, erano indiavolate per la curiosità di sapere quello che si conteneva nelle due pignatte da rompere. Ogni volta che passava accanto a loro un amico, un conoscente, esse lo chiamavano, lo afferravano per il braccio, strillavano per sapere da lui il gran segreto. Era dunque vero quello che si diceva, che la pignatta destinata alle donne conteneva un braccialetto d'oro per colei che la rompeva e una quantità di altri bei regali? Era vero che quella destinata agli uomini conteneva un berretto da notte per premio e una quantità di doni umoristici al resto della società? Chi metteva la benda alle donne? Federico Pietraroia, quel lezioso, quell'imbecille che passava la vita fra le De Pasquale a farla amoroso e la Casale a farli innamorato sciocco? Chi metteva la benda agli uomini? Gelsomina Santoro, quella civettona per non dir di peggio? Ah, se ne sarebbero viste delle belle. E il fermento, attraverso tutte quelle fanciulle, tutti quei giovanetti, quelle mamme, quelle vecchie zie, cresceva l'impazienza. Era grandissima. Non si quietavano di chiacchierare, di dimenarsi. Le interrogazioni, le risposte si moltiplicavano. Quando don Giuseppe Froio, col berretto civico messo fieramente sull'orecchio, con un bel sorriso di uomo galante, vecchio ricordo dei suoi affari usurai, fece un giro per le sale dicendo soavemente: «Signore, signorine, si passa in salone per la rottura della pignatta».